A casa tirarono un sospiro di sollievo quando li videro arrivare. Laura non aveva mai visto mamma così pallida e neppure così felice di vederla. Papà disse che avevano avuto giudizio a tornare indietro. Quella tempesta deve aver fatto il finimondo da qualche parte. È una buona idea farsi una cantina da queste parti, disse Almanzo. Poi chiese a papà se voleva andare con lui a vedere se qualcuno aveva bisogno di aiuto là dove era passata la tempesta. Lasciarono Laura a casa e ripartirono. Anche se la tempesta era passata e il cielo era tornato limpido, erano tutte inquiete e preoccupate. Passarono le ore. Laura si cambiò d'abito e andò con Kerry ad accudire le bestie, e quando finalmente papà e Almanzo tornarono, mamma mise in tavola una cena fredda. Mentre mangiavano, papà raccontò quello che avevano visto nei posti dove era passato il ciclone. Un colono a sud-est del paese aveva appena finito di trebbiare i suoi 100 acri di frumento. Era un ottimo raccolto, da pagarci tutti i debiti e trovarsi ancora un bel gruzzolo in banca. Aveva lavorato tutto il giorno con i trebbiatori che erano venuti ad aiutarlo, proprio per riuscire a finire prima di sera. E poco prima aveva mandato i suoi due ragazzini a riportare un carro al vicino da cui l'avevano preso in prestito per la giornata. Era in cima a un covone quando aveva visto arrivare la tempesta. Ce l'aveva fatta per un pelo a infilarsi in cantina. Ma il ciclone gli aveva portato via tutto: frumento, covoni, attrezzi, carri, stalla, casa. Di tutta la proprietà non era rimasto nulla, solo la nuda terra. I ragazzini e le mule erano scomparsi, ma poco prima che papà e Almanzo arrivassero sul posto, era ricomparso il maggiore dei figli di 9 anni. Era completamente nudo. Aveva raccontato che stavano tornando a casa con le mule al galoppo quando erano stati presi dalla tempesta che li aveva sollevati in aria. Le mule ancora agganciate insieme e loro due in groppa, e lassù si erano messi a girare in cerchio sempre più velocemente e sempre più in alto, finché lui aveva cominciato a sentirsi male, e allora aveva gridato al fratello di stare bene aggrappato alla mula. Intorno l'aria era tutto un vorticare di paglie, non si vedeva niente. Poi aveva sentito uno scossone e lo schiocco dei finimenti che si strappavano e doveva essere svenuto, perché quando aveva riaperto gli occhi si era trovato solo e l'aria era limpida. Vedeva la terra sotto di lui. Stava girando in tondo lassù in alto e a ogni giro era un po' più in basso finché alla fine aveva visto che era quasi arrivato a terra. Allora aveva cercato di fare un salto per mettersi dritto e tenere i piedi in basso. Così, toccando terra, si era messo a correre e dopo qualche passo era cascato disteso. Se n'era rimasto lì un po' a riprendere fiato, poi si era alzato ed era tornato a casa. La tromba d'aria lo aveva depositato a poco più di 1 miglio di distanza dalla fattoria di suo padre, senza più uno straccio addosso. Erano spariti anche gli scarponi coi lacci e tutto, ma lui non aveva neanche un graffio, come fosse successo che gli si erano sfilate le scarpe dai piedi senza che gli fosse venuta nemmeno una macatura, era un mistero. Tutti i vicini erano andati a cercare l'altro ragazzino e le mule. Avevano battuto la prateria in lungo e in largo, ma non se n'era trovata traccia. Non c'erano speranze che fossero sopravvissuti. Però, se è ricomparsa quella porta, disse Almanzo. Che porta? Chiese Kerry. Quella era la cosa più strana che avevano visto quel giorno. Era successo a un altro colono che aveva un appezzamento più a sud. Anche lui aveva perso tutto. Quando era uscito dalla cantina con il resto della famiglia, della casa e della stalla non restavano che 2 chiazze brulle sul terreno. Buoi, carro, attrezzi, polli. Era scomparso tutto. E erano rimasti giusto gli abiti che avevano addosso e una trapunta che la moglie aveva raccolto all'ultimo momento per avvolgerci il figlio neonato. L'uomo aveva detto a papà: «Mi è andata bene che non ho perso il raccolto. Non ce l'avevo un raccolto da perdere». Erano arrivati quella primavera e lui era riuscito giusto a dissodare un campo per seminare le patate per l'inverno. In serata, dopo essere andati anche loro a cercare il bambino dell'altro colono, papà e Almanzo erano ripassati di lì. La famiglia aveva trascorso tutto il pomeriggio a raccogliere tavole e pezzi di legno che il ciclone aveva seminato qua e là, e ora stavano cercando di capire se il materiale bastava a tirar su almeno un ricovero di fortuna. Mentre erano lì che ci ragionavano, uno dei figli aveva visto un coso scuro in cielo. Era molto in alto, giusto un puntino, ma non sembrava un uccello. E poi dava l'idea che si avvicinasse, sicché erano rimasti tutti lì con il naso in aria. Sì, quel coso stava scendendo lentamente verso di loro, non c'era dubbio. A un certo punto Avevano visto che era una porta. Era atterrata lì davanti. E così avevano scoperto che era la porta della baracca portata via dal ciclone. La porta, in condizioni perfette, senza neppure un graffietto. Ma la cosa di cui non si capacitavano era dove diavolo era stata per tutto quel tempo. E com'è che veniva giù così piano dal cielo azzurro? E che arrivasse proprio lì, poi, dove era prima di essere stata strappata via. Mai visto uno più felice di quel poveretto, disse papà. Così non deve ricomprarsi la porta. C'erano ancora tutti i cardini attaccati al loro posto. Restarono tutte stupefatte. Non si era mai sentita una cosa più strana. Una porta che torna indietro volando. Era incredibile pensare a quanto doveva essere finita in alto o lontano per ricomparire dopo tanto tempo. Che paese bislacco questo, disse papà. Ne succedono di tutti i colori. Eh sì, disse mamma, ma sono contenta che finora non siano successe a noi. Qualche giorno dopo, in paese, papà venne a sapere che avevano trovato i corpi del bambino e delle mule. Non avevano un solo osso intatto. Il bambino non aveva più un abito addosso e le mule avevano perso tutti i finimenti, ma né un brandello di stoffa né un pezzettino di cuoio vennero ritrovati mai più. Tramonto sulla collina. Una domenica Laura non uscì in calesse con Almanzo perché l'indomani Mary sarebbe tornata all'università, era il suo ultimo giorno a casa. Faceva così caldo già all'ora di colazione che mamma decise di non andare in chiesa. Carrie e Grace sarebbero rimaste a casa con lei, Laura e Mary andarono a prepararsi. Quando uscirono dalla loro camera, papà le aspettava sulla porta. Laura si era messa l'abito rosa a fiori e il cappello nuovo con le punte di piuma di struzzo ora saldamente fissate. Mary aveva un vestito azzurro a fiorellini bianchi e un cappello di paglia, bianco anche quello, con un bel nastro azzurro. Sulla nuca, sotto l'ala, era raccolta la grande massa dei suoi magnifici capelli e i riccioli biondi le incorniciavano il viso sotto la tesa, dove gli occhi spiccavano azzurri come il nastro. Papà le osservò per qualche istante. Gli brillavano gli occhi e la voce suonò piena di orgoglio quando disse con finto scoramento: «Per tutti i grilli di Gerusalemme, Caroline, non sarò mai abbastanza elegante per accompagnare in chiesa due belle signorine come queste». Ma anche lui faceva la sua figura, nell'abito scuro della domenica, con il risvolto di velluto nero, la camicia bianca e la cravatta turchina. Il carro era pronto lì fuori. Prima di vestirsi, papà aveva strigliato e spazzolato i cavalli e steso una coperta pulita sul sedile. I cavalli se ne stettero buoni buoni con la testa a ciondoloni mentre papà aiutava Mary a salire sfruttando la ruota come scalino e poi dava la mano anche a Laura. Si coprirono le ginocchia con una copertina leggera per difendersi dalla polvere e Laura la rimboccò bene tutta attorno alle gonne. Poi, nel sole e nel vento caldo della prateria, si avviarono lentamente verso il paese. Quel giorno c'era tanta gente in chiesa, tanta che non trovarono tre posti liberi vicini. Papà andò a sedersi davanti insieme ai vecchioni dei primi banchi e Laura e Mary si misero l'una accanto all'altra in un banco a metà navata. Il reverendo Brown si era messo a predicare con grande convinzione e Laura stava pensando che sarebbe stato bello se avesse detto anche qualcosa di interessante. Quando vide venir giù per il corridoio tra i banchi un bel micino grassottello che saltellando e giocherellando arrivò fino alla predella, ci saltò sopra e si mise a strofinarsi la schiena contro la parete del pulpito, fissando l'assemblea con i suoi occhietti tondi. Aveva l'aria così beata che a Laura parve quasi di sentirlo ronfare. Un attimo dopo si vide passare accanto nel corridoio un cagnetto bianco e marrone, con le zampe sottili e il codino all'insù, che se ne andava trotterellando di buon passo. Non perché cercasse qualcosa o volesse andare da qualche parte, ma perché quello doveva essere il suo modo di camminare. Dava quasi l'idea di essere venuto a dare un'occhiatina in giro, finché non vide il micio. Per un attimo si immobilizzò, poi, con un'esplosione di acutissimi latrati, scattò in avanti. Il micio fece la gobba, rizzò il pelo e un istante dopo era scomparso. La cosa strana era che sembrava essersi volatilizzato. Non lo si era visto fuggire e il cagnetto aveva smesso di abbaiare. Il reverendo Brown continuava a predicare come se nulla fosse. Laura si stava chiedendo dove fosse finito il micio, quando sentì ondeggiare la crinolina e guardando giù vide la coda sparire sotto la balza arricciata della sua gonna. Una volta al sicuro lì sotto, il micino prese ad arrampicarsi su per i cerchi della crinolina, aggrappandosi con le unghie e le zampette. Lì per lì a Laura venne da ridere, ma riuscì a controllarsi e se ne stette immobile al suo posto con la faccia seria seria. Dopo qualche istante, però, arrivò anche il cagnetto, che andava sbirciando e fiutando dappertutto in cerca del micio, e il pensiero improvviso di quello che sarebbe successo se lo avesse trovato sotto le sue gonne le fece venire tanto da ridere che, cercando di trattenersi, cominciò a scuotersi tutta. Si sentiva le costole premere contro il corsetto, le guance gonfie, le lacrime agli occhi. Mary non capiva cosa la divertisse tanto, ma accorgendosi che stava per scoppiare a ridere, le dette una gomitata, sussurrando: «Piantala!» A Laura venne da ridere ancora di più, si sentiva diventare tutta rossa. I cerchi della gonna continuavano a ondeggiare perché il micio ora aveva ricominciato a scendere piano piano. Poi i baffi sbucarono di sotto la balza, il micio tirò fuori il muso, dette un'occhiata in giro e, non vedendo il cane da nessuna parte, di colpo schizzò fuori e se ne andò di gran carriera verso la porta. Laura tese le orecchie, ma non sentendo abbaiare, decise che il micino l'aveva scampata. Mentre tornavano a casa, Mary disse: «Laura, cosa avevi da ridere? Ma quando imparerai a comportarti come si deve?» Laura ricominciò a ridere fino ad avere le lacrime agli occhi, mentre Mary se ne stava lì, impettita, con aria di riprovazione. «Papà volle sapere che c'era.» «Mai», disse Laura alla fine, asciugandosi gli occhi, «puoi darmi per persa.» Poi raccontò cosa era successo e persino a Mary venne da sorridere. Dopo pranzo trascorsero il pomeriggio in amabili chiacchiere tutti insieme, finché, verso il calare del sole, Laura e Mary salirono ancora una volta a guardare il tramonto dalla cima del Dosso. «Con nessuno vedo le cose bene come con te», disse Mary. «Ma la prossima volta che torno tu non sarai più qui?» «No, ma tu verrai a trovarmi», rispose Laura. «Avrai due case dove stare.» «Ma questi tramonti», cominciò Mary. Laura la interruppe. «Beh, il sole tramonterà anche a casa di Almanzo, immagino», disse ridendo. «È vero che là non ci sono dossi, ma ci sono 10 acri tutti piantati ad alberi. Ci andremo a passeggio in mezzo e tu li vedrai. Ci sono dei pioppi, naturalmente, ma anche aceri di varie specie, salici. Se crescono verrà un bellissimo bosco, non solo una siepe frangivento come quella che Pa ha piantato intorno a casa, ma un vero e proprio bosco.» «Che strano vedere un bosco in questa prateria», disse Mary. «Eh sì, tutto cambia», disse Laura. «Sì?» Tacquero per qualche istante, poi Mary disse: «Mi piacerebbe esserci per il tuo matrimonio. Non lo rimanderesti fino a giugno dell'anno venturo?» «No, Mary», rispose Laura con calma. «Ho 18 anni ormai e ho già insegnato 3 trimestri a scuola, uno più di me, e non voglio più insegnare. Quest'inverno voglio passarlo nella nostra casa. Comunque ci sarà soltanto la cerimonia in chiesa. Pa non può spendere soldi per il mio matrimonio, né io lo vorrei. Quando tornerai qui, l'estate prossima, avrò una casa dove ospitarti.» «Laura», disse Mary all'improvviso, «mi è spiaciuto molto per l'organo, se lo avessi saputo, ma desideravo tanto vedere la casa di Blanche ed era vicino, così Pa non ha speso i soldi del biglietto e io non pensavo che le cose cambiassero mai qui a casa. Mi sembrava che tutto dovesse essere sempre qui ad aspettarmi.» «È così, infatti. E non rammaricarti per l'organo. Pensa invece com'è stato bello andare da Blanche. Sono contenta che tu abbia avuto quell'occasione, davvero. E anche mamma, lo ha detto lei.» «Davvero?» Il viso di Mary si illuminò. Allora Laura le raccontò quello che aveva detto mamma, che era felice che Mary facesse qualcosa di bello fin tanto che era giovane. Così avrebbe avuto anche lei bei ricordi in futuro. Il sole ormai stava calando e Laura descrisse a Mary le fiammate di porpora e oro che illuminavano il cielo fino a perdersi nel rosa e nel grigio. «Torniamo ora», disse Mary. «Sento che l'aria sta cambiando.» Restarono ancora qualche istante lassù, tenendosi per mano, a guardare il cielo del tramonto. Poi tornarono a casa. «Come passa in fretta il tempo», disse Mary. «Ti ricordi quando l'inverno era così lungo che sembrava non dovesse finire mai? E poi veniva l'estate e l'inverno sembrava così lontano che quasi non ricordavamo nemmeno com'era?» «Sì, era bello quando eravamo piccole», disse Laura. «Ma magari sarà ancora più bello in futuro. Chissà.» Progetti di matrimonio. Come sempre, la partenza di Mary lasciò un grande vuoto in casa. L'indomani mattina mamma disse: "E ora? Pensiamo al tuo corredo, Laura. Diamoci da fare. Tenere occupate le mani è il primo passo verso la serenità." Laura andò a prendere le tele, mamma le tagliò e la stanza si riempì del ronzio della macchina da cucire e della serenità di loro due chine al lavoro insieme. "Ho pensato una cosa per le lenzuola", disse Laura. "Non voglio giuntare i teli a mano con quelle cuciture che non vanno mai alla fine. Se sovrappongo i bordi e poi faccio la cucitura a macchina al centro, secondo me la giunzione resta abbastanza piatta lo stesso ed è anche più robusta." "Può darsi", disse mamma. "Le nostre nonne si rivolterebbero nella tomba, ma dopo tutto i tempi sono cambiati." Con la macchina, tutte le cuciture delle lenzuola furono presto finite. Laura andò a prendere i rotoli di merletto che aveva fatto da tempo, coi ferri da maglio o con l'uncinetto. Tagliarono i pezzi della misura giusta e, come per magia, l'ago della macchina in un amen cucì il merletto sui bordi delle federe, al collo e ai polsi delle camicie da notte, sulla scollatura e al giro manica delle camiciole e in fondo ai mutandoni. Mentre lavoravano alla biancheria, ragionavano sul guardaroba di Laura. "Il vestito di popolo in marrone è quasi nuovo", disse Laura, "e quello rosa fiori è nuovo del tutto. Che altro mi serve?" "Un abito nero", disse mamma con decisione. "Secondo me un abito nero bisogna averlo. Possiamo andare in paese sabato a comprare la stoffa, un cashmere leggero, direi. Il cashmere veste bene e lo metti sempre, tranne nelle giornate più calde d'estate. E poi, quando quello è finito, dobbiamo fare un bell'abito per il giorno in cui ti sposi." "Oh, non c'è fretta", disse Laura. "Con tutto il lavoro che c'era d'estate, al manzo non aveva molto tempo per portare avanti la casa. Un giorno aveva accompagnato mamma e Laura a vedere lo scheletro di pali e travi che aveva costruito accanto alla catasta di tavole, un po' discosto dalla strada, dietro la sua piantagione di alberi. Sarebbero venute tre belle stanze, una grande dove stare di giorno, la camera da letto e una piccola dispensa con un ripostiglio adiacente alla porta sul retro. Ma dopo quella volta al manzo non l'aveva più portata a vedere la casa. "Fidati", le aveva detto, "prima che nevichi il tetto ci sarà." Nelle loro lunghe gite in calesse andavano dall'altra parte, verso i laghi Gemelli oppure a Spirit Lake e anche oltre. Lunedì mattina mamma stese sul tavolo le morbide lunghezze di soffice cashmere nero e, disponendoci sopra con cura i vari pezzi del cartamodello, in modo da ridurre al minimo lo spreco, cominciò a tagliare con le forbici grandi da sarta. Tagliò tutti i pezzi della gonna, del corpetto e delle maniche e li spillò gli uni agli altri. Dopo pranzo misero il rocchetto nero sulla macchina e cominciarono a cucire. Nel tardo pomeriggio la macchina ronzava ancora e Laura stava imbastendo la fodera di batista all'interno delle varie parti dell'abito quando, alzando gli occhi, vide arrivare il calesse di Almanzo. Doveva essere successo qualcosa se veniva di giovedì. Corse alla porta e lui disse: "Vieni, facciamo un giretto, ho bisogno di parlarti." Laura andò a mettersi la cuffia e tornò subito fuori. "Che c'è?" chiese mentre Barnum e Skip prendevano il trotto. "Solo questo", disse Almanzo. "Tu vuoi un matrimonio in grande?" E Laura lo guardò, stupita che fosse venuto apposta per chiederle una cosa del genere, quando si sarebbero visti comunque la domenica. "Perché mi chiedi questo?" "Beh, se non vuoi un matrimonio in grande, ti andrebbe di sposarci alla fine di questa settimana o all'inizio della prossima? Ce la faresti?" chiese lui, sempre più agitato. "Aspetta, non rispondere finché non ti dico perché te lo chiedo. Quando sono stata a casa in Minnesota quest'inverno, mia sorella Eliza ha cominciato a pensare di organizzare un matrimonio in grande. Naturalmente le ho detto che non vogliamo niente del genere, che se lo togliesse dalla testa. Stamani ho ricevuto una sua lettera, non ha rinunciato a quel proposito. Vogliono venire qui lei e mia madre per organizzare tutto." "No!" esclamò Laura. "Eliza la conosci?" disse Almanzo. "È una testona, vuole sempre fare come dice lei. Ma riuscirei a tenerla bada se fosse da sola. Mia madre è diversa, è un po' come la tua, ti piacerà. Ma Eliza le ha messo in testa questa storia che dobbiamo fare un matrimonio in grande. E se arrivano qui prima che siamo sposati, non so come fare a dirle che no, non vogliamo niente del genere. E poi io non posso permettermi di spendere tanto." "Ecco, adesso dimmi che ne pensi." Laura tacque per qualche istante, riflettendo sulla proposta. Poi disse con calma: "Anche Pa non può spendere tanti soldi solo perché mi sposo, ma vorrei avere un po' di tempo in più per finire il corredo. Se ci sposiamo così presto, non avrò nemmeno un vestito da mettere quel giorno. Mettiti questo, disse il manzo, è molto grazioso. Laura scoppiò a ridere. Questo è un vestito da tutti i giorni, per lavorare in casa. Non posso mica venire così. Poi tornò seria. Ma un abito che può andare ce l'ho, lo stiamo facendo ora con Ma. Allora? Ti andrebbe alla fine di questa settimana? Laura tacque di nuovo, poi raccogliendo tutto il suo coraggio disse: Almanzo, ti devo chiedere una cosa. Vuoi che io prometta di obbedirti sempre? Ah no, certo che no, rispose lui serio. Sì, lo so, fa parte della cerimonia, ma è solo una cosa che dice la donna. Non ho mai sentito che una donna lo faccia, né che un uomo per bene lo pretenda. Comunque io non lo dirò che prometto di obbedirti sempre, disse Laura. Almanzo la guardò stupito. Sei anche tu per i diritti delle donne, come Eliza? No, rispose Laura, non me ne importa del voto, ma non voglio fare una promessa che poi non mantengo. Almanzo, anche se ci provassi, non credo che riuscirei a obbedire a nessuno, se fosse una cosa contraria a quello che penso giusto. Non ti chiederei mai una cosa del genere, disse lui. Comunque per la cerimonia non c'è problema, perché il reverendo Brown non ritiene necessario usare la parola obbedire. Davvero? Ma ne sei sicuro? Laura non era mai stata tanto stupita e sollevata a un tempo. Sì, ed è anche molto convinto. L'ho sentito discutere per ore e citare la Bibbia contro San Paolo in proposito. È cugino di John Brown del Kansas, lo sai, no? Ed è un po' come lui. Allora siamo d'accordo? Alla fine di questa settimana o all'inizio della prossima? D'accordo, se non c'è altro modo di schivare un matrimonio in grande. Sarò pronta per la fine di questa settimana o per l'inizio della prossima, come vuoi. Se riesco a finire la casa, diciamo per la fine di questa settimana, se no sarà per l'inizio della prossima. Insomma, appena la casa è pronta, andiamo da Reverendo Brown e ci sposiamo. Una cosa molto semplice, senza formalità. Ora ti porto a casa, così magari riesco a dare ancora un colpetto alla nostra prima che faccia buio. Laura non volle comunicare subito la novità in casa. Temeva che mamma giudicasse poco opportuna tanta fretta. Magari avrebbe citato il proverbio: chi troppo in fretta va a sposare, col tempo indietro vuol tornare. Ma in verità il loro non era un matrimonio di fretta, erano 3 anni che uscivano insieme. Fu solo all'ora di cena che trovò il coraggio di dire che avevano deciso di sposarsi nell'arco di pochi giorni. Ma non abbiamo il tempo di fare l'abito, protestò mamma. Quello nero è quasi pronto, disse Laura, posso mettere quello? Non mi piace l'idea che ti sposi in nero, disse mamma. Si dice sposa di nero vestita, sposa presto pentita. Ma è un vestito nuovo, e se metto il mio vecchio cappello verde salvia con la fodera azzurra e tu mi presti la spilla d'oro con la fragolina, sarò a posto. Una cosa vecchia e una nuova. Una cosa imprestata e una cosa colorata, disse Laura allegramente. Non credo ci sia poi molto di vero in quei vecchi proverbi, ammise mamma. A mio parere fate bene, intervenne papà. Dimostrate di avere buon senso. Mamma però non era del tutto convinta. Facciamolo venire qui, reverendo Brown. Puoi sposarti in casa, Laura, e la faremo qui una piccola festa. No, ma non possiamo fare nessuna festa senza aspettare la madre di Almanzo, disse Laura. Laura ha ragione, lo pensi anche tu, Caroline, disse papà. È vero, riconobbe la mamma.